vogliamo cambiare, dicono gli italiani, cambiare il modo in cui funziona l'unione monetaria e certamente in queste cose la Merkel ha anche diritto di voto, diritto di veto come tanti altri paesi che hanno firmato i trattati. Allora, se la Merkel in queste cose fa una battaglia di retroguardia, cedendo un qualcosa, ma non tutto, mi sembra assolutamente giustificato. Però l'idea di Kohl e di Genscher, che era il ministro degli esteri della Germania all'epoca della riunificazione, era molto precisa. Senta qua. Noi vogliamo che l'unificazione dei tedeschi diventi un contributo alla stabilità nell'Europa intera. Lavorare in questo senso fa parte della vocazione europeista dei tedeschi, che si sono consacrati alla politica della responsabilità, rinnegando la politica di potere del passato. Ecco, rinnegando la politica di potere del passato, dice Genscher, però sembra che si orienti di più verso la creazione della superpotenza tedesca, la Merkel. È così? Non vedo una superpotenza, vedo che la Merkel ha una grande influenza in Europa perché rispetta, come Kohl, anche i paesi più piccoli, non semplicemente sgomita e dice ci siamo noi, dovete dire, fare quello che diciamo noi, e per questo ha anche seguito tra i paesi piccoli di fronte ad altri. Poi il punto è quello che la Germania ha al momento un certo successo economico, ma ricordo che la Germania, per venire più vicino a questo ideale di Kohl della unificazione europea, ha anche sacrificato il potere economico della Bundesbank e il marco. Ma sacrificato non tanto, mi sembra che l'abbia aumentato. Oggi la Germania è oggi l'Europa è un'Europa a trazione tedesca, che sembra sempre un po' meno l'Europa di Genscher, unita nella stessa direzione, sempre di più un'Europa divisa in due, quella del nord a trazione tedesca e quella del sud. Sì, l'Europa in generale, non dalla unificazione, ma dagli anni 2000, 2001, 2002, sta davanti alla sfida della globalizzazione. Sono stato io in scuola in Inghilterra prima della Thatcher, era un paese che ancora aderiva ai vecchi sogni di un'Inghilterra, il paese più ricco del mondo 150 anni prima. E nello stesso senso l'Europa anche pensa di essere ancora nella posizione degli anni 70-80, non è più così perché una volta in India e in Cina non c'erano fabbriche per produrre macchine, adesso ci sono. Sì, allora questo, abbiamo la concorrenza ce l'hanno tutti, Tobias, ma sì? Sembra tornata la tentazione di sempre di una germanizzazione dell'Europa invece che di una europeizzazione della Germania come sognavano Kohl e Genscher, o sbaglio? La Germania non doveva abbandonare il marco, funziona benissimo. Sì, ma l'ha fatto nel suo interesse, Tobias. No, non l'ha fatto su richiesta della Francia e di altri. Ma, cioè la Germania è una vittima secondo lei? No, non la vittima, ha fatto il suo contributo, ma chi non ha fatto il suo contributo sono altri, anche l'Italia che non ha mantenuto le promesse. Ma Mario? Sì, no, vorrei da Piller una spiegazione plausibile sul fatto che l'Italia si è impoverita del 7% per quanto riguarda il risparmio in questi anni, mentre la Germania stranamente è cresciuta del 18%. L'Italia si è impoverita perché non ha mai ristrutturato questa sua economia, che potrebbe vivere benissimo di turismo, di export delle aziende che hanno veramente dei marchi made in Italy che sono già lusso in sé, ma non ha fatto questo. Imprenditori italiani, imprese di successo italiane non investono in Italia ma fuori dall'Italia, ma questo è il problema dell'Italia, non della Germania. Pietrangelo Buttafuoco, buongiorno. Domanda: la guerra fredda di fatto è tornata, il mondo è ancora una volta diviso. La mia domanda è questa: l'Europa a guida tedesca porterà ad una scelta in campo ancora una volta atlantico occidentale, o finalmente si aprirà al continente europeo e quindi stabilisce un rapporto molto più chiaro con la Russia? La Merkel ha contatti molto profondi con Putin, perché Putin, quando è crollato il muro, viveva in Germania dell'Est come spia, e la Merkel era così costretta a imparare il russo. Così si conoscono bene, Merkel non si fida di Putin, e in questo Merkel ha più una vocazione atlantica di quella di fare accordi con Putin, ma anche questo, in questo vedo una Merkel che cerca di fare compromessi e di non andare avanti da sola. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Tobias Piller, ma anche gli americani, c'è la vocazione occidentale, d'accordo, però anche gli americani dicono l'Occidente è in crisi perché la Germania trascina l'Europa sempre di più verso la crisi. Hanno torto gli americani? Ci sono questi americani che pensano che stampando più moneta e spendendo più soldi pubblici si potrebbe lanciare l'economia, e questo funziona in parte in un paese come l'America, dove certamente non esiste niente come un articolo 18, perché si licenzia da un giorno all'altro. E in questa economia americana potrebbe funzionare un pochino, anche se poi creano nuovi problemi per il futuro, per tutto il resto del mondo, come hanno creato con la crisi del 2007. Adesso questo è un dibattito tra teorie di economia. La mia idea è che non funziona in Europa, l'Italia e Francia altre devono essere competitivi sul mercato mondiale. Senta Tobias, Vittorio Feltri ha intitolato un suo ultimo libro provocatoriamente Il Quarto Reich. Ecco, una provocazione, però questa tentazione egemonica della Germania verso l'Europa sembra sempre più forte agli occhi di molti. Questo libro, Il Quarto Reich, è certamente una collezione di luoghi comuni di chi capisce poco della Germania e maldicenze e anche pensieri cattivi sulla Germania. Senta, basati su pregiudizi. Sono cattivissimi tutti con la Germania. Senta, comunque l'Europa di oggi, a guida tedesca, con il presidente della Commissione Juncker, che è un uomo della Merkel, è arrivata subito ai ferri corti con Renzi. Senta qua. Cambiato il clima dell'Italia in Europa. Io non vado con il cappello in mano. Io sto cercando di dire una cosa. Cari italiani, se siamo seri le riforme le facciamo per i nostri figli, non per Juncker e non per la Merkel. Tra l'altro vado in Europa e vado a dire ai signori che stanno a Bruxelles che noi siamo l'Italia. Non sono il capo di una banda di burocrati anonimi. Sono il capo di 20 commissari politici. Non siamo dei burocrati. Non siamo altri funzionari. Siamo uomini politici. Noi non stiamo lamentandoci di ciò che accade a Bruxelles. Io ad esempio non ho mai detto che a Bruxelles la Commissione è un covo di burocrati. Però ora che l'hanno detto loro, mi fa quasi pensare l'idea. Cerchiamo di non sabotare la Commissione prima che inizi a lavorare. E lo farò ogni qualvolta mi troverò di fronte a situazioni simili. Non ho niente contro il signor Renzi, che apprezzo moltissimo. Dopo Barroso, con Juncker, è tornata la politica in Europa? Questo vediamo, il punto che voglio sottolineare era quello. Avevamo questa volta, la prima volta, dei candidati diretti per la guida dell'Europa. C'era Schulz, socialdemocratico, e Juncker, democristiano. Dopo queste elezioni Merkel anche tentennava, diceva... Ma vabbè, ha scelto Juncker, però... Sì. Ecco, però è stato scelto, sì. Però, ha detto la sinistra, ha detto Habermas alla Merkel... Guarda, se una volta avete eletto e fatto campagna elettorale, adesso non dovete dire ciccia. Sì, comunque certamente Juncker è l'uomo scelto e voluto dalla Merkel. Juncker però adesso è all'interno di uno scandalo di credibilità molto forte, perché, come lei sa benissimo, ci sono le rivelazioni su Juncker sul fatto che il Lussemburgo ha, come dire, coperto, favorito, non so qual è il verbo giusto da usare, però l'evasione fiscale di tutte le grandi multinazionali del mondo naturalmente è un problema non giuridico però politico. Juncker si deve dimettere? Lo vediamo nei prossimi giorni. Chiedo la sua opinione. Tutti. La mia idea è che sarebbe un colpo duro per l'Europa se Juncker si dimettesse e tornasse un burocrate. Beh, però non ho capito se secondo lei si deve dimettere Juncker oppure no. Secondo me tutti sapevano cosa che a Lussemburgo i paesi pagano meno, le aziende pagano molto meno tasse. Allora la sorpresa forse è molto più piccola di quanto adesso sembra nei media. Beh, però se deve fare lui l'armonizzazione fiscale, naturalmente la credibilità è un po' bassa. Certo, anche altri hanno fatto scegliere Moscovici a seguire così le riforme e a seguire così la politica della finanza pubblica. Senta Piller. Un francese. E questo metodo di Juncker, mettere sempre delle persone che sono stati coinvolti in passato, ma adesso devono guardare le cose dal punto di vista europeo. Senta Giorgio, da Torino ci scrive: quanto ha pagato l'Europa per la riunificazione della Germania? L'ha pagato soprattutto la Germania stessa. Ah, l'Europa non ha pagato? Quanto avrebbe pagato no, l'Europa? No, le chiedo a lei. L'Europa ha dato un piccolo contributo, come l'ha dato per dato di più per aree sottosviluppate del sud dell'Europa o dell'est dell'Europa, l'ha dato anche per la Germania dell'Est. Qualcuno ci scrive, non si firma, però ci scrive una cosa divertente e gliela leggo. La Germania vuole un'Italia per le sue vacanze, Piller? Ah, purtroppo l'Italia non è più così in auge. Neanche per le vacanze? Neanche per le vacanze? Se vedete i numeri, così io sono sempre a favore di studiare i fatti. Sì. E così inviterei anche a studiare la Germania. Senta, però Piller, la Germania viene sempre in Italia in vacanza, come mai? La Merkel, naturalmente. La Merkel viene in Italia per vacanze perché vuole delle cose tranquille e non avventurose. Allora l'Italia va bene. Sì, vai Pietrangelo. No, volevo comunque ricordare che un grande tedesco, quale Federico di Svevia, si fece musulmano per vivere in Sicilia. Mario, c'è una domanda da fare? Io vorrei tornare sul caso Juncker. Tobias, però c'è un problema di credibilità, come diceva anche Minoli. Cioè, secondo me, insomma, Juncker deve dimettersi, non può restare presidente della Commissione dopo aver di fatto dato, come dire, riparo, un ombrello a, e chiamiamola illusione, tutto quello che vuoi, delle multinazionali. Insomma, ti devi esprimere su questo, un giornalista come te deve dare la sua opinione, io non l'ho ancora sentita. Io dico che non devo fare... Avrai un'opinione, sì o no? Si deve dimettere o no? Opinione, sì la mia o opinione, no? La mia opinione è che oggi non si deve dimettere. Domani? La politica di Juncker stesso è di far entrare personaggi coinvolti in situazioni anche difficili e farli... Cioè, bisogna essere coinvolti, in qualcosa per andare al governo con Juncker, non è una bella notizia. No, non è una bella notizia questa. La storia di Juncker adesso, no? Insomma, mi pare che sul caso Juncker il corrispondente della Frankfurter Allgemeine si tiene molto prudente. Comunque grazie per il... Si limita a dare il proprio numero di matricola. Mix 24. Changez les dames, je vous en prie. Changez les dames, c'est la folie. Changez les dames, changez, je veux ma femme, récupérer. Femme, elle est comme ça. Canzone del lunedì di Pietrangelo. È la canzone del lunedì perché nessuno sta fermo, i piedi diventano sguardi, coi piedi infatti ci si guarda intorno e ci si cerca passi allegri. Le mani prendono altre mani, è giorno ma sembra già sera perché si fa festa e seppure piove è la cosiddetta acqua ardente e la brina per esempio nei campi ai riflessi dello champagne. La musica è tanto allegra da essere tracannata più che ascoltata, si simoneggia, insomma, è una quadriglia. Signore, Mario, torniamo alla tragedia dell'attualità. Le tue bolle, cosa c'è nella tua pentola? Vai. Noi dobbiamo dare un segnale forte alla destra. Votiamo un simbolo dell'Italia unita. Un nome a cazzo? Sì, Garibaldi. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Garibaldi. Questo era benvenuto Presidente, siccome è cominciato il giochino, cominciamo anche noi. La diciamo tutta, ma hanno scoperto l'acqua calda, cioè che Napolitano si sarebbe dimesso, diciamo, tra la fine del 2014. Beh, era tanto tempo che se ne parlava comunque per il discorso detto, di fine anno, non detto, so se sarà lì. Scritto, ma... vabbè, lasciamo stare. Sono i giochini del nostro mondo. Dell'informazione, si fa finta che sia notizia, una non notizia. Esatto. Però, insomma, io vorrei ricordare, visto che ormai è un profluvio di cose, insomma, voglio ricordare un paio di regolette del gioco, non farò nomi, siccome ho letto cose lunari sui giornali, in rete. Allora, prima di tutto, tutti possono essere eletti al Quirinale. Tanto bene, è questo. Quindi Pietrangelo è il candidato. Vabbè. È il nostro candidato, ovviamente. E poi, alla presidenza. Tra l'altro, va bene anche l'età, no? Hai 50 anni, ce li hai. Perché così, l'età minima è 50 anni. 51. È eleggibile. C'è un problema. C'è un problema. E io sono per la monarchia. Ah, va bene, non fa niente, quella è una monarchia. Sarai di fatto re. Chi ha governato in questi anni? Tu, io, no, lui. Oh, quindi. Tutti possono essere eletti e bisogna avere 50 anni di età, quindi il nostro candidato è ufficialmente Pietrangelo Buttafuoco. Poi. Il presidente viene eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, cioè, per essere chiari, si riuniscono Camera e Senato insieme. Oh. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, che sono eletti dal Consiglio regionale, per rappresentare le minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato, vabbè, ricordo. Abbiamo fatto il compitino. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Ma attenzione, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Cosa vuol dire questo? Che poi non è così difficile eleggerlo alla fine. Ma anche alla neanche fine. Tanto facile, perché mi sembra che faranno, il caso Napolitano faranno, sia stato abbastanza faranno un grande chiaro. Caos sui nomi, poi ne troveranno. Vabbè, vedremo. Andiamo avanti con la realtà. Via. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Ah, è tornato. Finalmente, Gordon. È tornato il nostro Gordon Gekko. Allora, solo un paio di notizie, diciamo, sul mondo della cosiddetta alta finanza. C'è un manipolo di banche, tra cui JP Morgan, Chase, RBS, Citigroup, che stanno trovando un accordo con la giustizia americana base 1 miliardo, perché avevano manipolato il mercato dei cambi. Ho visto stamattina, quindi multe. Sì, ho letto stamattina un conticino sulle ultime trimestrali, prime 10 banche del mondo, quanto pagheranno alla giustizia. Tieniti forte, 15 miliardi di dollari. Se ne pagano 15, provo a immaginare di quant'era, diciamo, il cosiddetto giro d'affari di queste manipolazioni varie e non eventuali in questo caso, perché se tu fai un accordo vuol dire che ammetti la colpevolezza. Salamino. Nota dal Quirinale. Ci siamo cominciato. Ha cominciato la campagna elettorale, che sia messo agli atti. E con la marcia reale, con la marcia reale, che è l'unica e l'unico inno, l'unica musica legittimata ad essere suonata all'interno del Quirinale. Detto ciò, prima che arrivi una denuncia, nella nota del Quirinale viene detto che resto nella pienezza dei poteri fino all'ultimo giorno, e questo è in sintesi il pensiero di Giorgio Napolitano, che nella nota viene descritto nella pienezza di tutte le funzioni attribuitegli dalla Costituzione. Insomma, è cominciata. La presidente della Camera, Laura Boldrini, candidata, fa sapere che ci vuole una donna. Ora, per quel che vi riguarda, e se mi permettete, Giovanni, se tu lo consenti, io inviterei gli ascoltatori, anche voi ovviamente, chiunque voglia partecipare alle Quirinarie, perché tanto i 5 Stelle lo faranno. Io mi porto facciamoli avanti nel lavoro. Noi. Allora io vi dico intanto chi saranno i probabili candidati. Ovviamente Rodotà sarà il primo, perché insomma si chiama Stefano, poi è costituzionalista, poi ha una faccia importante. Poi un candidato che sicuramente verrà fuori dalle Quirinarie, che però è avvantaggiato perché ha una doppia esperienza repubblicana. Ce l'ha doppia, non c'è solo quella della Repubblica Italiana, ma ce l'ha in quanto ex della GNR, Guardia Nazionale Repubblicana, c'è pure quella della Repubblica di Salò, la Repubblica Sociale Italiana. Cioè, come chi è? Dario Fo. C'è Dario Fo. Poi se vogliamo una donna c'è Barbara Spinelli, però io poi vi voglio dire che il mio candidato, quello che io propongo, quello che insomma che è più veloce del cavallo di Gengis Khan davanti alla muraglia cinese, quindi che può far contento, che si è produttore di vini e lui fa dei vini che si abbinano bene. Lui fa dei vini che si abbinano bene al casaleggio, che è un formaggio quello lì di Grillo, e c'ho una sorpresa per voi. E lui, se volete. E qui al telefono, buongiorno Ajace Telamonio! Ah, tornato! Ecco, grazie. Io sempre, per in virtù delle scuole alte, traduco, sta dicendo buongiorno. Il nostro candidato è Massimo D'Alema. Ah, ancora. Vuoi fare tu una domanda ad Ajace? Ma Massimo D'Alema, come pensa di andare al Quirinale? Quali voti? Grazie. Allora, ha detto questo, che intanto sia chiaro che i nomi che circolano, e lui l'ha già fatto sapere su Twitter, i nomi che circolano sono una montatura per farvi preferire un terzo mandato di Napolitano. No, questo terribile il pensiero. Dopodiché Massimo D'Alema, grazie, è arrabbiato. Arrabbiato? Sì, prego. Tu sai che, vabbè, io rispetto Ajace, ma non parlo senza Dudu. È possibile consultarlo? No. No, Dudu, poverino, non può più, perché c'era la diritto di parola. No, non lo fanno più parlare. Questo è grave. No, perché deve chiedere l'autorizzazione a Vladimir Luxuri, è una cosa complicata. Vabbè, vedremo domani se Dudu per caso torna. Comunque, ha detto Ajace Telamonio che D'Alema resta la migliore delle candidature, quindi se volete mandare gli sms al 32, io sono senza lente, 349 238 6666. Ecco, sostenete la candidatura di D'Alema al Quirinale. Va bene, da domani è aperto il concorso. Sara Fimmana si doccia con mo zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmine, che bella parola femmina. Ieri si è celebrata la caduta del muro di Berlino, perfetto. Invece l'altro ieri a Bologna, la patria del tortellino, si è celebrata la caduta del mito della bellezza anoressica. Libere tutte, la bellezza non ha regole. Infatti, non so se vi è sfuggita, c'è stata una manifestazione, il Curvy Pride, una vera dichiarazione d'orgoglio di essere formose, mediterranee. Una volta si diceva mediterranea ed era anche un complimento. Bene. Questa manifestazione non è solo un modo per far passare un'idea di bellezza un po' diversa da quella perennemente patinata proposta dalla moda e dallo spettacolo, ma è anche un'occasione seria e importante per ricordare che l'anoressia è una causa di mortalità proprio tra gli adolescenti, il nostro futuro del paese, sempre più numerosi a soffrire di disturbi alimentari. Ma Dio non t'ho perdono, quello che hai fatto a me. Mix 24. Le darò una lettera da consegnare a un mio amico. Con chi l'hai? Con nessuno, Don Vito. Con chi l'hai? Con nessuno, parola mia d'onore, con nessuno. Con chi l'hai? È un mio amico. È il più grande allenatore di tutte le lotte gino-nipponiche. Allora, con chi l'hai? Questa era suggerita a buttafuoco, confesso. Va bene. Allora, vertice APEC, bisogna dargli un'occhiata. Il Pacifico è il centro di tutti gli interessi. Obama ha una missione particolare, non so se la porterà a termine, e cioè tenere insieme gli interessi del Giappone e della Cina. In questi giorni si segneranno probabilmente un po' di accordi commerciali che in realtà ci riguardano molto da vicino. Bene, ne parleremo Salamino. Come nave senza nocchiero in gran tempesta. No, però no. No. No, la tempesta non c'era perché il metrò della nuova linea C, 4 miliardi, atteso da 20 anni nella Roma eterna, dove l'attesa del nocchiero, della tempesta, insomma un cortocircuito straordinario, 11 minuti di attesa da una stazione all'altra. Poi che succede? Che le porte non si aprono quando deve scendere il sindaco. Sua eccellenza. Il sindaco doveva scendere, le porte non si aprono, lo volevano ancora a sé. Sì. Il Corriere della Sera, malizioso, scrive: 20 anni per averla e 20 minuti per avere il primo guasto. Invece i giornali, quelli amici, fanno notare che Ignazio Marino, quella specie di crocetta di Marino, ha pagato il biglietto. Finalmente. La Merkel quando viene in vacanza in Italia, che paga di tasca sua. Va perché bene, quella va bene. Viene privatamente, sì, senza fascia. Lui si mette la fascia. Non facciamo gaff. Allora, la metro la volete? Certo. Accontentatevi di questa. Come delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio. Professor Simonelli, buongiorno, lo storico buongiorno della televisione dell'Università Cattolica di Milano, che ogni buongiorno settimana ci fa il punto su dov'era il canone durante la settimana. Questa settimana dov'era il canone, professor Simonelli? Allora, il canone era nei 10 comandamenti, ma non quelli che tutti stanno aspettando, soprattutto Pietrangelo, so che sta aspettando con ansia i 10 comandamenti. Prega tutte le sere, sì, perché sì, arrivino. Così finalmente Benigni la smetterà di massacrare la Divina Commedia, si sfogasse pure questi 10 comandamenti. Allora, i 10 comandamenti sono anche un'altra cosa, sono un'inchiesta di un bravissimo giornalista, Domenico Iannacone, che ha chiuso la sua serie venerdì sera con una reportage, un ritratto di un padre che ha lasciato tutto il lavoro per seguire ed educare il figlio autistico. Ha anche altri 2 figli che vengono coinvolti, una moglie ovviamente. Un ritratto fatto senza retorica. E lì c'era il canone? Lì c'era il canone, perché questo segna un po' quello che è una delle belle novità della stagione: il ritorno in grande stile dell'inchiesta televisiva, del giornalismo televisivo, finalmente non più succube dei talk. Perché basta fare i talk, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, ma anche basta fare mini inchieste, mini reportage da dare poi in pasto al dibattito dei talk. Il giornalismo va per conto suo, dimentica finalmente che... Vabbè, per fortuna. Ecco, è così, andiamo avanti. Viva i 10 comandamenti, non solo quelli di Benigni, ma anche quelli che abbiamo visto in queste 5-6 serate. Senta, abbiamo visto che torna anche Lucarelli, sì, il giallista, però non torna sulla Rai, torna su Sky Arte. Ma noi l'anno scorso quante volte abbiamo segnalato il fenomeno Sky Arte, che era un fenomeno emergente, ed eccolo interessante, qua. Non sappiamo se lì c'è il canone, però... Beh, insomma, non c'è il canone, ma c'è molto servizio pubblico. C'è molto servizio, perché Lucarelli farà delle inchieste appunto su misteri dell'arte. Ebbene, allora noi le vedremo e le giudicheremo. La canzone di saluto. Grazie, professore. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole.